La versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. Eccoci qua in questo 5 di dicembre alle 16.08 e 15 secondi. Grazie per l'ascolto, come sempre, diretto in podcast. Vi dico subito di che cosa parliamo. E in particolare, se siete amministratori, consiglieri eletti, assessori, vice sindaci, sindaci di comuni italiani, vale anche per le province e per le città metropolitane, però insomma i comuni fondamentalmente, che per la prima volta, grande evento, sono scesi sotto le 8.000 unità, siamo a 7.900 e qualche cosa grazie alle fusioni che qualche decina di loro hanno messo in atto. Però se siete amministratori di comuni, naturalmente vale per tutti i cittadini, però è la puntata giusta per telefonare, perché di che cosa parleremo oggi? Traendo spunto da un convegno che c'è stato al MEF lo scorso fine settimana, in questo convegno che cosa è avvenuto? Si è fatto il punto preciso di quanta parte dell'aggiustamento fiscale, cioè del contenimento del deficit, in questi anni, in particolare per gli anni di cui abbiamo i bilanci definitivi certificati degli enti locali, quindi si finisce al 2015, ma negli anni 2010-2015, domanda, visto l'insistenza con cui nel dibattito pubblico gli amministratori locali hanno sempre detto: cari cittadini, dovete capirci, stiamo sobbarcandoci a una quota di tagli dal governo Monti in poi, durissimi da parte dei da parte dello Stato con i suoi trasferimenti, conoscete la vicenda poi della trasformazione delle province in enti di secondo livello, però con le competenze che restano e per via della mancata riforma costituzionale comunque la sottostima dei fabbisogni finanziari. Conoscete anche le lamentazioni delle città metropolitane italiane del fatto che dice, ci avete dato le competenze però non ci sono risorse. Ecco, allora, visto questa situazione di fondo che per anni abbiamo noi stessi molte volte, ospitando le voci degli amministratori locali che dicevano: noi non ce la facciamo e dobbiamo tagliare servizi, dobbiamo alzare le tariffe, eccetera, eccetera. Qual è il punto preciso di che cosa è avvenuto nei rapporti tra finanza pubblica centrale e locale in questi anni, 2010-2015? Ecco, per la prima volta, possiamo dirlo, l'ANCI di anno in anno di fronte al Parlamento, nelle sue relazioni, nei suoi documenti, aggiornava le sue cifre. Però adesso abbiamo le cifre ufficiali che ci danno l'idea di, uno, rispetto al contenimento del deficit statale, quanto è stato fatto tagliando i trasferimenti ai comuni, alle province, alle città metropolitane che erano poi in via di nascita. Uno, due, che cosa è avvenuto nei bilanci degli enti locali? Cioè, quanti hanno diminuito la spesa corrente? Quanti l'hanno aumentata? Quanti hanno diminuito la spesa in conto capitale, cioè gli investimenti? E quanti invece sono riusciti, malgrado tutto, nel mix di risorse che diminuivano, magari ad aumentarli perché contenevano la spesa corrente e aumentavano invece la spesa in conto capitale? Come è andato il debito degli enti locali in questi anni? Ecco, sono cifre ufficiali, quindi questa volta non è più possibile la polemica politica, che è stata molto spesso a ogni legge di bilancio sugli stanziamenti, il contenimento degli stanziamenti, la trattativa che si apriva tra ANCI e governi, sapete, è uno dei luoghi obbligati delle leggi di bilancio in questi ultimi anni, a cui si aggiungeva quello naturalmente del confronto con la conferenza Stato-Regioni. È interessante però fare il bilancio globale per capire che i dati, intanto ricordiamoli, ma anche per apprezzare la diversità di risposte che a questo calo di trasferimenti, una volta che sia chiaro la quantità, c'è stata a livello locale. E che cosa questa comporta? Perché malgrado tutto c'è chi le spese correnti le ha aumentate, e anche significativamente. Come mai? Ecco, sentiamo intanto i nostri ospiti, uno dei quali è stato protagonista di quel seminario perché ha lavorato lui alla relazione che il 30 novembre è stata presentata al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Poi naturalmente sentiamo l'ANCI, poi abbiamo due sindaci di quelli che vengono citati e indicati per motivi che vedremo e sentiremo anche la loro voce. Però se volete 800 24 00 24, diteci l'esperienza della vostra amministrazione, quanto, come ha pesato il taglio dei trasferimenti e come avete reagito se eravate consiglieri, assessori, vice sindaci o sindaci. Allora, cominciamo con i primi due ospiti, uno dei quali appunto chi ha presentato questo studio, cui ha lavorato per un bel po' di tempo, perché la massa dei dati è molto rilevante, e cioè il professor Luigi Marattin, consigliere economico del Presidente del Consiglio, economista all'Università di Bologna. Buon pomeriggio, grazie di essere con noi, professor Marattin. Grazie a voi, buon pomeriggio. Lo dico da subito, lo ascolta, collegato già con noi, il Guido Castelli, che è sindaco di Ascoli ed è responsabile appunto della finanza locale dell'ANCI. Grazie sindaco di essere con noi. Prego, buonasera. Allora, Marattin, abbiamo un bel po' di numeri da spiegare. Sì, numeri, ricordo, elaborati con il preziosissimo aiuto del Ministero dell'Interno, dei rendiconti consuntivi degli enti e dalla Ragioneria Generale dello Stato. Quindi sono numeri iper ufficiali, sì, a questo assolutamente. Punto. Sono anche pubblici, sono sul sito internet del MEF, adesso spero possa essere diffuso in modo che ogni cittadino, cioè ogni cittadino possa ovviamente andarci e controllare. Guardate, abbiamo appunto, l'obiettivo era di dissipare un po' di leggende, di false leggende e falsi miti. Il primo risultato è che è vero che nel periodo 2010-2015 lo Stato ha chiesto molto agli enti locali. Qui parliamo di comuni e province, province, città metropolitane, le regioni le tratteremo in seguito. Cioè su 25 miliardi di riduzione del deficit nominale di quei 5 anni, la metà. Esattamente la metà, 12 miliardi e 230 milioni, sono stati ottenuti tagliando i trasferimenti agli enti locali. Comuni 8 miliardi e 4 ai comuni e 3 miliardi e 8 alle province, sostanzialmente. Quindi la prima verità è che è vero, in quegli anni, in quei 5 anni in cui si è realizzato gran parte dell'aggiustamento del deficit della Repubblica, che passò dal 4,2% al 2,6%, in quegli anni lo Stato ha chiesto molto agli enti locali. Poi c'è da dire che sia prima che dopo lo Stato ha continuato il processo di riduzione del deficit non chiedendo più nulla agli enti locali. Ma in quegli anni sì, c'è stata una forte richiesta. L'altro fatto che viene fuori è che la reazione a questo taglio dei trasferimenti è molto diversificata. Sulle province è molto chiara. Le province hanno tagliato moltissimo la spesa corrente, cioè per più della metà, per il 53% di questa correzione, le province hanno reagito tagliando le spese correnti, quindi non agendo sul lato fiscale, anche perché molti di loro erano già al massimo, con i loro due strumenti tributari, l'imposta provinciale sulle trascrizioni e l'addizionale del RC auto, però le province, ecco, su quei 3 miliardi e 8 i tagli hanno ridotto la spesa corrente di 2 miliardi e 100, 2 miliardi e 2 quasi, quindi più della metà della correzione le province l'hanno fatta così, con percentuali di riduzione in particolare di acquisti di beni e servizi molto ampie, meno 35% gli acquisti, meno 30% i trasferimenti a famiglie e imprese. Fra le province io ci metto dentro anche le città metropolitane che in quell'ultimo anno, nel 2015, esatto, si distanziarono, quindi questa è un'altra, come dire, verità è un termine pericoloso, però sono i dati di fatto, l'aggiustamento fiscale, le vere e proprie manovre di spending le abbiamo trovate molto forti sulle province. Sui comuni la situazione è un po' diversa, è molto più variegata, il vero dato che emerge è che è difficile trattare il comparto comunale fatto di 7.978 comuni come un comparto omogeneo, lì dentro c'è un po' di tutto. In aggregato su 8 miliardi e mezzo di taglio e trasferimenti, i comuni hanno ridotto la spesa per 2 miliardi e 3, quasi 2 miliardi e 4, quindi più o meno poco più di un quarto. Ecco, fatto 100 il taglio ai trasferimenti, per poco più di un quarto i comuni hanno reagito riducendo la spesa e il restante ovviamente hanno fatto alzando le entrate. Quella spesa però è quasi tutta, al 90%, o risparmi di personale dovuti al blocco del turnover in quegli anni, come in parte anche adesso, era un forte blocco del turnover, quindi il risparmio di personale non era frutto di una scelta discrezionale dei comuni, ma era obbligo, conseguenza di quell'obbligo, e il risparmio di spesa per interessi dovuti non solo al calo del debito, ma anche al calo per la componente del debito a tasso variabile degli interessi passivi dovuto alla congiuntura macroeconomica. Quindi l'altro dato è che di questa correzione di spesa dei comuni, la stragrande maggioranza, il 90%, sono riduzioni di spesa dovute o al personale o agli interessi passivi. La spesa in acquisti di beni e servizi, ad esempio, in quegli anni, sto cercando anch'io sul momento perché, come diceva lei, i dati sono tanti, in quegli anni la riduzione di acquisto di beni e servizi, eccolo qui, è del 2,32%, quindi dal 2010 al 2015 la spesa in acquisto di beni e servizi e consumi intermedi cala leggermente. Poi all'interno del comparto comunale abbiamo una grandissima variabilità, abbiamo il 68% dei comuni che la spesa l'ha ridotta, e pensi il 35% dei comuni, il 35% totale, non di quel 68%, quindi più di un comune su tre, la spesa corrente l'ha ridotta più del 10%. E ridurre la spesa corrente più del 10% in 5 anni è tanto. Quindi un dato è dire, ragazzi, in Italia più di un comune su tre ha ridotto tanto la spesa corrente. Parallelamente il 31% dei comuni, nonostante questi massicci tagli e trasferimenti, è riuscito ad aumentare la spesa corrente, ed il 14% dei comuni italiani è riuscito ad aumentarla più del 10%. Quindi il dato è che all'interno del comparto comunale noi abbiamo straordinari episodi di risparmio, ripeto, il 35,82% per essere precisi dei comuni italiani sono riusciti a tagliare la spesa più del 10%, ma abbiamo un altro terzo di comuni che addirittura, nonostante un taglio molto massiccio alle entrate, ha aumentato la spesa corrente. Mi lasci dire due cose finali per dare un quadro completo, poi ripeto, spero che chiunque sia curioso vada sul sito del MEF a guardare. Lo Stato nel frattempo, perché guardi, le dico la verità, io vengo dal mondo degli enti locali, ho fatto l'assessore al bilancio a Ferrara sì. In questi anni appunto ho avuto modo di occuparmi dal lato governo e ho imparato che non esistono santi e diavoli, nel senso che non è che c'è un livello di governo che è un santo e un altro livello che è il diavolo. E questo forse qualcuno qui a Roma lo deve capire un po' meglio, perché noi abbiamo visto anche lo Stato cosa ha fatto in questi anni. Lo Stato, l'amministrazione centrale dello Stato, dal 2010 al 2015 la spesa corrente è diminuita, ma in misura molto molto piccola, dello 0,74%. Poi sappiamo che la spending statale è stata più che altro riallocazione. Però se parliamo di livelli, come abbiamo parlato per i comuni, lo Stato ha fatto meno per quanto riguarda riduzioni di spesa corrente. E l'altro dato che volevo dire è che un altro dato incontrovertibile, purtroppo, questo più a livello locale che non a livello statale, è la grande sofferenza degli investimenti pubblici, che però dopo il 2015 hanno cominciato lentamente a riprendersi. Abbiamo grossi cali a due cifre, che però in conseguenza anche degli interventi che abbiamo messo in atto poi, a cominciare dalla sostituzione del patto di stabilità con una regola più efficiente, hanno piano piano cominciato a riprendersi, ma comuni e province in quegli anni purtroppo hanno massicciamente ridotto gli investimenti pubblici, e questa è ancora una priorità dell'azione di governo. Quindi ecco, questa è un po' la sintesi, ci sono alcuni fatti che devono essere smitizzati, cioè non è vero che tutti i comuni se ne sono fregati e hanno alzato le tasse, non è vero che c'è stata macelleria sociale con gente, insomma, con servizi distrutti, eccetera, la situazione è un po' più variegata e va analizzata con un pochino più di, appunto, di scientificità, anche per riuscire a capire bene dove intervenire ancora. Comunque una forbice molto elevata, perché più del 10% totale dei comuni ha ridotto la spesa corrente molto significativamente, e però anche più del 10% dei comuni l'ha accresciuta. Molto, no, più del 30, il 35% dei comuni l'ha ridotta di più del 10%. Ah, di più del 10%, ha ragione. E il 14% dei comuni l'ha aumentata più del 10%. Ha perfettamente ragione. E le due domande solo. Primo, la forbice di variazione in qualche misura, e se sì, in che misura, dipende da l'ampiezza, la grandezza dei comuni e dal numero dei residenti. Secondo, nel frattempo che cosa avveniva al debito dei comuni? In presenza di minore trasferimenti, il debito saliva o scendeva? Allora, prima domanda, abbiamo anche lì le analisi, capita un po' di tutto su dimensioni demografiche. Diciamo che la parte che tira verso la riduzione, cioè la fascia demografica che tira più verso la riduzione, è i comuni medi. Perché, ripeto, abbiamo fatto dei grafici a torte, spero siano abbastanza chiari, ma guardandoli bene si capisce che quello che fa pendere la bilancia verso quelli che l'hanno ridotto, ripeto, generalmente parlando, due terzi dei comuni hanno ridotto la spesa, un terzo l'ha aumentata. E quello che fa pendere la bilancia, diciamo, quantitativa sui due terzi sono la fascia dei comuni medi. Sul debito ricordo sempre, non per lei ma per, diciamo, per i non esperti di finanza locale, che c'è una cosa che contraddistingue i comuni rispetto allo Stato, cioè i comuni possono fare debito solo per investimenti. Esattamente. E non solo, i comuni devono coprire la quota capitale del rimborso dei prestiti con le entrate correnti. Lo Stato invece rimborsa il debito facendo un nuovo debito. Questo anche ai non addetti ai lavori non è sempre chiaro. Quindi le condizioni sono molto più stringenti per gli enti locali che non per lo Stato. Quindi questo è per dire che in realtà la dinamica del debito non c'entra nulla con i trasferimenti. Cioè quando un comune taglia i trasferimenti, lui ha soltanto due modi: o alza le tasse o taglia la spesa. E anni fa qui abbiamo da questi microfoni spiegato quando avvennero i casi di emissioni di debito da parte di grandi comuni con problemi collegati poi ai tipi di contratti sottoscritti eccetera, spieghiamo molte volte che in realtà la limitazione di quella facoltà era sacrosanta. Ci sono ordinamenti di grandi paesi europei che storicamente l'hanno sempre negata quella possibilità. Io continuo a pensare che sia giustissimo come lei ha appena spiegato. Penso infatti anch'io, però dicevo, quando un comune sta in trasferimenti, lui o alza le entrate o taglia la spesa corrente, esatto, perché appunto sono separati spesa corrente da investimenti. Ma quindi, detto questo, il debito nei comuni e nelle province diminuisce anche qui a due cifre. Le dico il punto: sui comuni noi abbiamo una riduzione del 13,81%, quindi 6 miliardi e 6 di debito ridotto dal 2010 al 2015. E sulle province abbiamo una riduzione di debito di 2 miliardi e 6, pari però al 25%. Quindi facendolo passare da quasi 48 miliardi a 41. Quindi la considerazione però sull'ordine dimensionale non avvalora del tutto, in parte o niente, una delle considerazioni tipiche di quando si fanno i dibattiti sulle classi dimensionali, purtroppo a taglia molto piccola dei comuni italiani, dicendo in realtà c'è una dimensione sotto la quale l'ottimizzazione delle risorse di bilancio a fronte alle richieste dei servizi affidate a un comune è impossibile, mentre solo da una certa soglia più elevata, tradizionalmente si dice almeno 15.000 se non 20-25.000 abitanti, quell'ottimizzazione è possibile, perché questa potrebbe ragionevolmente essere una delle ragioni per cui i comuni di media grandezza sono quelli che spingono di più verso la quota percentuale più elevata dei comuni che hanno ridotto la spesa corrente. In definitiva è più facile ridurre la spesa corrente in ragione di un ambito di offerta di servizi che consente un'ottimizzazione migliore che per il piccolo comune. Ma guardi, questa cosa qui secondo me però non si vede tanto, o non si vede solo da questo studio, ma da altri che abbiamo fatto, ma sono dati pubblici di Istat ad esempio, cioè quale sia il minimo efficiente di scala. Cioè nel senso, noi prendiamo la spesa pro capite per alcuni servizi e vediamo che la forma è a U, nel senso che i comuni molto piccoli hanno costi fissi molto, hanno costi pro capite molto elevati. Poi questi costi scendono e poi risalgono, perché ovviamente quando la dimensione sale, esatto, le città. Quindi il minimo sta da qualche parte intorno ai 10.000 abitanti. Quindi se la domanda è qual è la dimensione in cui si realizza il punto minimo di costo, è intorno ai 10.000 abitanti, che è il motivo per cui stiamo spingendo molto le fusioni. Alle fusioni. Abbiamo aumentato dal 20 al 60% l'incentivo a chi si fonde. Oggi due comuni che si fondono prendono per 10 anni, oltre ai trasferimenti ordinari, il 60% dei trasferimenti che prendevano nel 2010. E nel 2010 i trasferimenti erano doppi rispetto, sì, a quelli attuali. Erano questo precedenti. Perché vogliamo spingere i comuni ad arrivare a quella dimensione ottimale che sta intorno. Però diciamo, se ragionassimo sulla dimensione ottimale, avremmo bisogno di alcune migliaia, ecco, sul totale di 7.940 rotti di comuni in meno. Però questo capisco che in Italia al tema dei campanili. Guardi, io però, se avessi, diciamo, cosa che non ho, responsabilità politica, lancerei un programma. Fra 10 anni 5.000 comuni, ecco, in Italia invece di 8.000. Sottoscriverei, perché sarebbe una gestione ottimizzata delle risorse, cari ascoltatori. Non è i costi della politica, gli amministratori, non è questo, perché sapete che i sindaci nei piccoli comuni non sono certo responsabili di quello, per le loro micragnosissime rimborsi rispetto a quello che fanno. Il problema è la locazione generale, organizzazione generale dei servizi, questo è il punto vero. Però vabbè, assolutamente sì, lasciamola lì. E intanto adesso vediamo con Guido Castelli, sindaco di Ascoli, responsabile della finanza locale dell'ANCI. Innanzitutto, questi numeri vi tornano? Perché io avevo accumulato un po' di audizioni in Parlamento in cui i numeri che diceva l'ANCI erano leggermente superiori dei tagli. Ma adesso, sulla base di questi numeri, e cioè di una versione che, per così dire, un po' riconosce che l'onere è stato rilevante, ma dall'altra parte disaggrega anche i dati e vede che i comportamenti, poi l'impatto che ha avuto sui comuni è molto diversificato. Ci stiamo a convenire sul fatto che non è stata una strage indiscriminata come talvolta è sembrato, Castelli? La strage in realtà, la discriminazione va letta sulla base di quello che è anche il commento che faceva Gigi Marattin su quel terzo famoso di comuni che hanno aumentato la spesa. E allora da questo punto di vista dobbiamo andare a vedere quali sono e chi sono quelli che hanno aumentato la spesa. Premessa, aumentare la spesa non è di per sé una cosa sbagliata per un comune, che non è un ministero, non è una capitaneria di porta, ma è un ente che eroga servizi al cittadino. Ma fatta questa premessa, in quel terzo, caro Giannino, di comuni, innanzitutto circa un terzo, 700 su 2000-2002, sono comuni della Calabria e del Molise che, partendo da performance di spesa bassissime, hanno leggermente incrementato la spesa, soprattutto ottenendo la disponibilità di fondi europei. Un'altra parte consistente di quei comuni, compreso il mio, ha aumentato la spesa non perché ha alimentato la dissipazione, ma perché semplicemente ha fatto privatizzazioni. E quindi io, avendo venduto la società che commerciava il gas, una società indiretta partecipata, ho avuto disponibilità per realizzare di più e meglio quelle che erano le aspettative del mio paese, della mia città. Poi c'è ancora il caso di coloro i quali hanno aumentato la spesa non perché hanno fatto infrazioni e sperperato soldi, ma come nel caso di Milano, hanno esercitato capacità fiscale introducendo un addizionale comunale all'IRPEF che prima non c'era e quindi hanno avuto la disponibilità. Il punto è questo, Giannino. Complessivamente il contributo dato al comparto è enorme, perché quei 9 miliardi in realtà hanno rappresentato la sommatoria di tante cose. Il contributo dato ai saldi di finanza pubblica. Il primo è quello che ha detto Marattin, quei 2 miliardi e 4 di taglio, diciamo, di spesa. Dice Marattin, beh, non è stata virtù, gliel'abbiamo imposto, cambia poco per il cittadino di Ascoli, di Vigevano o di Ferrara, nel senso che io somministro e erogo i servizi o attraverso beni o servizi o attraverso personale, e se io devo ridurre il numero degli assistenti sociali, la mamma del bambino autistico non è che sta lì a verificare se è stato virtuoso o meno la ragione per la quale quell'assistente sociale è andata in pensione e non l'ho potuta rimpiazzare. Ma al di là di questa notazione polemica, c'è un grande assente della ricostruzione di Marattin, ed è l'enorme pressione fiscale locale che è stata imposta ai comuni a fronte di un paradigma che è stato: caro comune, io ti taglio i trasferimenti, se vuoi continuare a campare tu aumenta le tasse. In principio era l'IMU che, ricordo sempre, ha portato la tassa immobiliare dall'incasso di 9 miliardi e 100 milioni della vecchia ICI 2011 a qualcosa come 23 miliardi e 700 milioni. Allora attenzione, Giannino, una parte di quel contributo più rilevante l'hanno dato i cittadini attraverso i comuni, che sono stati esattori verso i quali lo Stato centrale ha delegato responsabilità fiscale, e buona parte dei deficit anche politici di rappresentatività sono derivati proprio dall'applicazione di questo che è stato il paradosso montiano. Io taglio i trasferimenti, però ti appioppo capacità fiscale, ne deriva il fatto che alla fine io taglio i servizi oppure cerco in qualche misura... Capacità fiscale, poi precisiamo per chi ci ascolta, non sul totale del gettito trattenuto, ma di esattore anche per quota dello Stato. Questo... Anche per quota dello Stato. Io ricordo che tuttora, anno del Signore 2017, il 7,6 per mille del gettito dell'IMU sui capannoni, sugli immobili cosiddetti di categoria D, viene prelevata dallo Stato. Quindi da questo punto di vista non si tratta di essere vittime o comunque di alimentare questa geremia contro lo Stato centrale, però nei dati di Marattin manca il 2016. Allora, diciamolo per una volta, il saldo delle amministrazioni locali nell'anno 2016 è più 4,2 miliardi, quindi noi siamo virtuosi nel senso che rispetto alle entrate noi produciamo un surplus. Nello stesso anno, il 2016, il saldo delle amministrazioni centrali è meno 46 miliardi. che il 10% delle entrate in deficit. Che e dice Maratti? Discorre... No, ma fermiamoci a queste due osservazioni che sono fondamentali. Cioè, il primo è sulla capacità fiscale aggiuntiva che ha esposto gli amministratori locali. Il secondo è, però noi da questa cura emergiamo con un segno più nel conto. E voi invece Stato centrale, voi non Marattini, ma insomma lo Stato centrale invece resta col segno meno. Che dice Marattini? Saluto intanto l'amico Guido, che è persona per bene competente, però c'è un po' di confusione, se posso permettermi. Primo, quando dice, ma ci sono stati i fondi europei in Calabria, oppure io ad Ascoli ho venduto la società, quella va a finanziare la spesa in conto capitale, non c'entra nulla con la spesa corrente, proprio in virtù della cosa che vi dicevo, negli enti locali c'è una rigida separazione. Quello che Guido ha venduto l'ha utilizzato semmai per aumentare la spesa in conto capitale e gliene va dato merito se ha fatto così, ma quei dati che abbiamo detto prima hanno a che fare con la spesa corrente, quindi non c'entra nulla. Il 2016 perché è fuori? Perché gli anni in cui lo Stato tagliava ai comuni sono dal 2010 al 2015, nel 2016 sono fermati i tagli, quindi noi abbiamo preso quella finestra temporale e abbiamo detto fatti 100 i trasferimenti che ti davo, quei trasferimenti sono diventati 80, tu quei 20 che ti sono mancati, visto che hai soltanto due modi, o tagli la spesa corrente o aumenti le entrate, che cosa hai fatto? Quindi da questo punto di vista non c'entra neanche il passaggio da ICI a IMU, perché quando lo Stato ha tolto l'ICI e ha dato l'IMU, è vero che ha sostituito una 500 con un Audi, ma la differenza se l'è trattenuta lo Stato, Quindi attenzione, cioè io ti ho tolto uno strumento che cubava 100 come potenza fiscale, te ne ho dato uno che cubava 300, ma quei 200 te li ho tagliati, proprio in modo che fosse ceteris paribus, cioè le tue risorse fossero le stesse. Poi in aggiunta ci sono i tagli che ti ho fatto, però il passaggio ICI-IMU non c'entra nulla. Infine, terzo e ultimo punto, i 4 miliardi e 2 che dice Guido nel 2016, che in realtà sono 6 miliardi e 4, anche qua c'è un po' di confusione. Quello è il cosiddetto overshooting, cioè che cosa vuol dire? Tutte le entrate finali rispetto a tutte le spese finali, ma entrate finali vuol dire corrente e in conto capitale. E questa è la conseguenza del fatto che per un po' di problemi, tra cui anche forse la transizione del codice degli appalti, i comuni non sono riusciti a utilizzare nel 2016 tutti gli spazi per investimenti che lo Stato ha messo loro a disposizione cambiando il patto di stabilità. Questa è una componente del fatto che nel 2016, un po' a sorpresa, poi l'andamento finale degli investimenti rispetto a quelli attesi è stato inferiore alle attese nella ripresa che era iniziata dal 2015, per esempio. È il surplus di entrate finali sulle spese finali che mischia la parte corrente con la parte in conto capitale. L'obiettivo di questa analisi invece è molto semplice, fermiamoci alla parte corrente, poi abbiamo dato anche i dati di debito e investimenti per completezza, ma il punto è, lo Stato in quei 5 anni ha chiesto tanto ai comuni, forse troppo, ma di quello che ha chiesto, cosa sei andato di qua e cosa sei andato di là. Benissimo. Quindi... Allora, intanto grazie a professor Luigi Marattini e a Guido Castelli. Adesso andiamo a vedere cosa succede in borsa, un po' di pubblicità e poi due sindaci. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... La versione di Oscar. Eccoci qui cari ascoltatori, quindi sintesi, ripeto, in 2010-2015 ai comuni 8 miliardi e mezzo e quindi di trasferimenti dallo Stato, il 68% dei comuni ha ridotto la spesa corrente e più del 10% l'ha ridotta, ad averla ridotta più del 10%, cioè molto, un bel 35%, quindi tanti, però c'è anche più del 30%, il 31,6% dei 7.900 comuni che ha aumentato la spesa corrente e di questi un 14%, quasi la metà, l'ha aumentata molto, cioè più del 10%. Allora ci siamo posti il problema, senza avere nessuna pretesa di rappresentare statisticamente una spiegazione del come mai a fronte di questi pesanti tagli c'è chi è riuscito comunque ad aumentare la spesa corrente. Allora abbiamo preso uno dei comuni in cui l'aumento di spesa corrente è stato più significativo, e quindi secondo i dati che sono quelli certificati, la spesa corrente è passata in questo caso dal 2010 al 2015 da 71,2 milioni a 86,78, è il caso di Catanzaro. E allora abbiamo con noi collegato il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, perché innanzitutto ringraziandolo e salutandolo per essere collegato con noi. Buon pomeriggio sindaco. Buon pomeriggio a voi. Ecco, per spiegarci come a fronte di questi tagli in realtà nel suo comune la spesa corrente è aumentata, anche spiegandoci, come ci ha già fatto Castelli, a che cosa avete fatto ricorso. Ecco, com'è avvenuto? Allora, la spesa corrente non è aumentata, perché se facciamo la media dal 2010 al 2016, 83 milioni e 500 mila euro avevamo nel 2010, 81 milioni nel 2016. Il problema è che si prende molto spesso la media degli ultimi tre anni, e nel 2015 invece la spesa corrente è salita a 104, ma perché è entrata a regime la nuova contabilità armonizzata, dove praticamente abbiamo revisionato tutti i residui che sono andati poi nella competenza in quell'anno, che poi, tra parentesi, non è stato speso, perché poi andiamo a vedere che anche a fine anno c'è un fondo di accantonamento per quanto riguarda i crediti, i debiti notevoli nel comunicato. Perché nel frattempo, questo lo aggiungiamo per chi non è addetto alla cosa della finanza locale, nello Stato, lo Stato ha realizzato, via imposto, insomma, ha realizzato con propria direttiva, con norme nazionali, la convergenza dei criteri con cui venivano redatti tutti i bilanci degli enti locali, per effetto della quale si è fatta una rivisitazione anche dei crediti esigibili o meno, ed è esattamente il meccanismo che lei ha citato, gli effetti nel 2015. Poi alla fine noi abbiamo avuto, dico solo alcuni dati, nel 2010 83 milioni, nel 2011 79, 2012 71, 2013 74, 2014 76, il 2015 è sfasato per via di questa, gli effetti legge, della riforma, e il 2016 81, quindi rispetto al 2010 abbiamo 2 milioni e mezzo di spese correnti in meno, mentre i tagli dello Stato al comune di Catanzaro dal 2011 a oggi sono stati complessivamente 11 milioni e 400 mila euro. Perché siamo riusciti a mantenere comunque in pareggio il bilancio? Perché nel frattempo il comune di Catanzaro, una formula un po' particolare perché non sono passato neanche dal consiglio comunale, ho chiuso 6 partecipate che facevano un buco ogni anno di circa 9 milioni di euro. E il sistema, perché mi è stato chiesto anche dal ministro come avesse fatto il comune di Catanzaro a chiudere le partecipate, è perché c'erano questi, diciamo, queste perdite di bilancio, dove io ho presentato per le società che sono rimaste un piano industriale di ricapitalizzazione che prevedeva il pareggio, e dopo 6 mesi sono riuscito a fare il pareggio risparmiando sulle spese, perché c'erano un po' di spese passe. Le altre partecipate che avevano debiti fuori dal contratto di servizio col comune non le ho portate in consiglio comunale, mi sono preso la responsabilità, ho bocciato i bilanci e ho preteso che l'amministratore delegato portasse i libri in tribunale, e ho fatti fallire. Secondo me, fallendo queste società, ho messo il personale in cassa integrazione, ho esternalizzato i servizi a un prezzo minore di quanto pagavamo noi come comune, e ho obbligato le ditte ad assumersi tutto il personale. Le ditte a cui avevate esternalizzato i servizi come previsto dalla legge, cioè, esattamente. Questo sottolineiamolo a chi ci ascolta: tutte le volte che in un comune vi dicono che facendo una gara o esternalizzando si mettono a rischio i dipendenti di chi prima o in house oppure con concessione, perfetto, no, mi fa piacere che il sindaco conferma, perché non è vero, ecco, è una bugia. E poi le dico di più, che mentre dei lavoratori prima avevano dei certificati medici che non potevano, perché era la società principale era una società che doveva fare la differenziata porta a porta, Mentre prima i lavoratori non potevano piegarsi perché prendere il cassonetto, quindi dovevano stare in amministrazione perché hanno avuto dei certificati, nel privato questo non succede perché altrimenti vengono licenziati. Quindi... Allora, guardi, io la ringrazio perché lei non si è perso tanto, ci ha spiegato concretamente. Io posso dire, no, guardate, non l'ho mai incontrato nella mia vita, ma siamo andati a vedere, quello che vi ha detto è esattamente quello che è avvenuto. Questo per dire che in questa diminuzione molto rilevante dei trasferimenti, perché è pari praticamente alla metà di quello che poi lo Stato faceva negli anni sulla finanza pubblica generale, ma in realtà gli effetti sono stati anche questi, e sono effetti, perdonate cari ascoltatori, positivi. Non ho detto che stiamo parlando della stragrande generalità dei comuni, distinguo, però ecco, il caso di Catanzaro ve lo abbiamo fatto, quindi io ringrazio il sindaco per avercelo spiegato. Adesso andiamo alle informazioni sulla strada e abbiamo un altro sindaco invece che ci spiega la sua di vicenda. La versione di Oscar. Eccoci qua tornati. E dopo il sindaco di Catanzaro che ci ha spiegato che i tagli ci sono stati, però insomma, tra i residui del nuovo criterio di redazione del bilancio che per legge diventava esecutivo, da una parte, dall'altra con operazioni sul perimetro delle partecipate e anche energiche, perché alcune sono finite con i libri in tribunale, ed esternalizzazione dei servizi, ma salvando i dipendenti. Quando vi dicono a Roma che non si può fare la gara per l'ATAC perché sennò ci sono i mezzi dipendenti, non è vero, capite? Ecco, questo per dire, adesso non confondo l'ambito, l'importanza e l'impatto di Catanzaro con Roma, ma Roma è la municipalizzata, quella insieme all'AMA, cioè quella dei rifiuti di Roma, sono le due più scassate d'Italia da anni nel resoconto annuale di Mediobanca per debito e perdite. E dire che il trasporto pubblico non si può fare la gara perché si mettono in pericolo i posti di lavoro non è vero. Ripetete con me, secondo le leggi vigenti non è vero. Ecco, basta saperle queste cose, perché gli effetti sono quelli di mettere stop a una situazione insostenibile o di lentissimo recupero in cui bisogna buttare un mucchio di soldi, salvaguardare gli occupati e mettere punto a capo invece con gestioni più efficienti che vincono la gara secondo standard pubblici di servizio. Quando vincono la privatizzazione significa che non c'è il servizio pubblico. Non è vero, perché gli standard di servizio li decide la mano pubblica che lancia la gara, li sorveglia la mano pubblica, e la differenza è che quando c'è una gara non succede come all'ATAC, dove si perdono milioni e milioni di corse ogni anno. Milioni, cioè se nei primi 10 mesi si hanno perse già 12 milioni, vedremo a fine anno rispetto a gli impegni che sono negli standard da garantire. Allora, invece andiamo al caso di un altro sindaco, un'altra città, perché abbiamo con noi Nicola Giorgino che è il sindaco di Andria. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, sindaco. Buon pomeriggio a voi. E perché abbiamo chiamato il sindaco di Andria? Perché il sindaco di Andria, insieme ad altri come Lecce, furono amministrazioni che impugnarono i criteri che erano stati adottati dal governo Monti nel luglio 2012, che riguardavano i tagli alle autonomie. Ed è ancora in carica di quelli che furono protagonisti di quell'impugnativa. Abbiamo trovato che il sindaco De Andrea era ancora in carica, quindi grazie di essere con noi. Ma ci ricordi com'è e perché quella vicenda? Com'è andata? Poi avete vinto, avete perso? Cosa è successo? No, quella vicenda è accaduto che il TAR del Lazio rimise la questione alla Corte Costituzionale, per cui in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale, che ne aveva dichiarato l'illegittimità nella parte in cui appunto determinava quei tagli senza, con effetto retroattivo, fu rimessa la questione al TAR, e poi il governo ha previsto una norma per cui, in attuazione di quella sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato e in riferimento al ricorso numero 734 del 2014 che pendeva appunto presso il TAR Lazio, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di circa 8 milioni e mezzo per l'anno 2017 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2018 per ristorare quelle risorse che erano oggetto del contenzioso. Chiaramente sarebbero state erogate nel momento in cui ci fosse stata la rinuncia al contenzioso amministrativo pendente. E la questione è ancora aperta con ancora il Ministero dell'Interno e il Ministero delle Finanze. Ecco, ma al di là di ricordare quell'impugnativa, per la sua città e per la sua amministrazione, questi anni sono stati anni in cui complessivamente l'entità delle risorse che avete ricevuto in meno come trasferimenti a quanto ammonta più o meno? A circa 12 milioni di euro. Su una media annuale di spesa che è diventata in questo... No, la media annuale di spesa corrente è di circa 60 milioni di euro spesa corrente nel nostro bilancio, ridotta dal 2010 fino ad oggi, da quando ministro, di circa 13 milioni di euro, di cui 6 milioni di spesa del personale, 3 milioni e mezzo spesa cultura, sport, servizi pubblici, istruzione, sviluppo economico e una parte residuale soltanto dei servizi sociali, perché lì abbiamo continuato ad erogare i servizi per dare sostegno alle però voglio dire per capirci, prima abbiamo avuto un sindaco che è riuscito a mantenersi alto sulla spesa, ci ha spiegato, ma nel vostro caso 12-13 milioni su una sessantina sono il 20% in meno, sì. Quindi è una cifra che è sfidante. I cittadini come l'hanno presa? Ma noi però abbiamo, diciamo, la spesa del personale, chiaramente essendo diminuita di 6 milioni abbiamo inciso soprattutto su una riorganizzazione della macchina amministrativa attraverso l'utilizzo e la razionalizzazione delle risorse. Chiaramente non è un servizio che viene erogato ai cittadini. Per quanto riguarda invece la cultura, lo sport e le altre attività di promozione come lo sviluppo economico, abbiamo cercato di creare sinergie con i privati in modo tale da non far venire meno quella che è l'offerta culturale o sportiva, per esempio organizzando manifestazioni attraverso il contributo dei privati che attraverso una pubblicizzazione hanno un ritorno anche in termini di marketing, di immagine. E sotto questo profilo non abbiamo eliminato servizi in favore della comunità. Allora, come vedete, è un sindaco che spiega come ha dovuto rinunciare al 20% di risorse. Quindi noi stiamo tentando di sentire tutti. Grazie anche al sindaco De Andrea. Abbiamo Michele da Bergamo. Rapido Michele, che vuoi dirci? Rapidissimo Oscar, volevo semplicemente dire che i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze dimostrano che sia durante il periodo del patto di stabilità che dopo, adesso con la riforma degli equilibri di bilancio, in realtà i comuni non sono riusciti a spendere il saldo che avevano a disposizione da spendere. Allora Michele, quindi... questo è un punto che abbiamo già trattato anche con Maratina, hai ragione, in effetti è così. Nell'ultimo anno, questo nel 2016 è stato molto rilevante per le minori spese di investimenti a livello locale, proprio perché c'era il problema del codice degli appalti, però è così. Del resto questo è un problema che per alcune categorie, tipo i fondi europei e così via, è un problema molto aperto nel nostro paese. La PA vede trasferimenti dal centro in meno, ma poi la capacità di spendere tutto e bene non ce l'ha, e questo però parla della nostra capacità tecnica e organizzativa, ecco, non parla della dotazione delle risorse. Grazie anche a te, continuiamo su Radio 24 alle 8:15 domani mattina con me, Luca Tellese, 24 mattino, e poi pomeriggio come sempre alle 16 alla versione di Oscar.